Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Voglio salutare anche i mottolesi, che sicuramente tra di loro si stanno salutando, e tutti coloro che ci seguono anche da casa attraverso lo streaming. È un mezzo straordinario che ci permette di rimanere connessi, e quindi voglio dare il benvenuto anche a chi ci segue da casa. E poi non so se avete notato, però qui in seconda fila c'è anche Marta. Non ero convinto che fosse in mezzo a noi, però vogliamo fare un applauso a Marta che è qui con noi. Benvenuta, bentornata. E Marta, non so se avete notato, non è sola. E quindi diamo un forte benvenuto a Jason in mezzo a noi. Benvenuto, welcome. Abbiamo anche un'altra famiglia che forse qualcuno di noi ha avuto modo di conoscere, però io voglio dare il benvenuto. Loro si sono trasferiti al rifugio e per noi è una gioia poterli accogliere, e si tratta di Sebastian e Mariana. Sono lì, sono alti, li vedete. Con i loro figli, io li devo leggere, purtroppo non li ho ancora memorizzati, però sono con noi Lautaro, Mora e Ramiro. Benvenuti, benvenuti. Vorrei dare anche il benvenuto ai bitontini, perché è sempre importante salutare i bitontini. Benvenuti anche ai bitontini. Come si chiama? Perché i bitontini? A me sta a cuore Bitonto, quindi per me è solo, e poi suona bene, bitontino, è bello. Amiamo i ruvesi, amiamo i santospiritesi, i giovinazzesi, i baresi, ma i bitontini, vedete, i bitontini, che belli che sono i bitontini. Diamo un abbraccio e un caloroso anche benvenuto a tutte quelle facce di quelle persone che da tempo non vediamo in chiesa e che forse aspettavano l'incontro di sera per essere in mezzo a noi. Benvenute, benvenute, e ci accomodiamo. È bello poter vivere questa nuova stagione nella quale abbiamo l'incontro di sera, ed è bello poter dare la possibilità a chi veramente ha avuto disagio nel poter venire la domenica mattina e offrire a loro la possibilità di sperimentare di nuovo l'incontro di chiesa e vivere la famiglia che noi siamo. Però io vorrei anche incoraggiarci a guardare in prospettiva le cose, perché la mia speranza e la mia convinzione è che non chiuderemo più l'incontro della sera, e che quindi andremo avanti con l'incontro della sera. Siete contenti con me? Siete d'accordo con me? Qualcuno in modo particolare, qualcun altro dice no, preferivo la mattina. E la buona notizia è questa, che è mia convinzione che non solo avremo attivo l'incontro di sera, ma attiveremo anche quello della mattina. Perché è giusto che sia così, perché siamo una chiesa che vede in prospettiva, e quindi vogliamo dare la possibilità ai giovani di riposare più a lungo la mattina, perché i giovani sono stanchi, no? Affannati della settimana, e quindi hanno bisogno di riposare la domenica mattina, e vogliamo offrire a loro un incontro la domenica sera. Però vogliamo dare l'opportunità a tutti coloro che hanno più facilità nel venire la domenica mattina di partecipare a un incontro anche la domenica mattina. Dobbiamo attivare entrambi gli incontri, prima e più di tutto non per essere accomodati noi, ma per accomodare un numero crescente di persone, perché la Chiesa è chiamata ad avere un impatto nella società e a fare spazio a quante persone, quante più persone che hanno bisogno dell'Evangelo di Cristo Gesù. Siete d'accordo con me? Questo cambiamento non è per essere comodi noi, ma per accomodare più persone. E io spero che questa sia un'occasione, quella che viviamo nell'incontro serale, di invitare più persone a questo incontro, agevolare la possibilità, chi non ha la possibilità di venire la domenica mattina, a venire all'incontro di sera. E presto, in base a quello che sarà, e io sono fiducioso di questo, anche il rientro di forze, di volontariato, dell'impegno anche dei credenti, perché si tratta proprio di questo, la carenza maggiore che abbiamo è proprio nel volontariato, nel servizio, attiveremo tutti e due gli incontri. Quindi se ancora non servi in uno degli incontri della domenica, presto lo potrai fare, o di mattina o di sera. E quindi daremo l'opportunità nelle prossime domeniche, nei prossimi mesi, di offrire la propria disponibilità al servizio in chiesa. Questo ci permetterà di aprire entrambi gli incontri. Siete contenti con me di questo? Lo vedremo presto. Amen? Amen, amen. Io questa sera voglio cominciare leggendo un passo con voi che si trova in 1 Pietro, al capitolo 5, dal versetto 8. Si collega molto molto bene a quello che è stato il messaggio meraviglioso che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Se non avete avuto modo di ascoltarlo, vi invito ad ascoltare questo messaggio che ci ha portato Antonio Morra, che parlava degli ultimi tempi e dell'importanza per la Chiesa degli ultimi tempi di vivere in sobrietà, in moderatezza. E questo verso comincia proprio così, dice: siate sobri. La Chiesa degli ultimi tempi deve essere sobria. E poi aggiunge: vegliate. E sappiamo che l'invito di Gesù, ripetutamente, in modo particolare in Luca 24, dove presenta quelle che sono le avversità, quelle che sono le sfide degli ultimi tempi, l'appello di Gesù è quello di vegliare, vegliare in preghiera. E qui l'apostolo Pietro dice: siate sobri e vegliate, siate sobri e vegliati, sobri, moderati, contenuti, autocontrollati e in veglia, attenti, in preghiera, svegli, in allerta. E poi aggiunge: il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. Resistetegli, resistete all'avversario, resistete al nemico stando fermi nella fede. Io voglio parlare di fede questa sera. Abbiamo bisogno di fede. Probabilmente quello che ascolterai questa sera non è nulla di nuovo rispetto alle cose che già sai, però è una mia io sento da parte del Signore in modo particolare in questo tempo, è una mia urgenza quella di portarci ad una sobrietà e a una veglia considerando l'importanza della fede nella nostra vita. La fede è tutto, la fede è fondamentale. E questo verso ci parla del fatto che nelle nostre vite c'è un avversario, c'è un nemico. Il nemico è reale e per quello che leggiamo, non solo in questi versi, ma in tutto il testo biblico, per come ci viene presentato, questo nemico è attivo. Non si ferma, va attorno come un leone ruggente, è aggressivo, il nemico è aggressivo, non è lì che si fa una passeggiata attorno a noi, è lì aggressivo che vuole minacciare, che vuole impaurire e che vuole anche attaccare. E io credo che come credenti è molto fondamentale, molto molto importante, fondamentale per noi ricordarci che abbiamo un nemico. A volte quando ci chiediamo come stai, come va, a volte la descrizione delle nostre circostanze, della nostra vita, esclude completamente la presenza di un nemico. E quindi diciamo, sto vivendo un tempo difficile, è un tempo avverso, ci sono circostanze difficili, ci sono circostanze che mi mettono in difficoltà, sono affannato, sono stanco, sono triste. E tutto questo noi dobbiamo comprendere che può essere, può derivare da un avversario attivo che vuole il peggio per le nostre vite e sabota la nostra vita, il nostro percorso di vita. Lui vuole fermarci e non farci vivere l'abbondanza di vita invece che Gesù promette, perché Gesù promette e dice: sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza. E questi versi ci ricordano che noi possiamo resistere al nemico, che noi possiamo rimanere in piedi davanti al nemico. E in Giacomo noi leggiamo, Giacomo al capitolo 4 ci dice che nel momento in cui noi resistiamo al diavolo, lui fugge via da noi. Non è bellissima questa cosa? Resistete al diavolo, dice Giacomo, ed egli fuggirà da voi. Quindi noi abbiamo la possibilità di vincere completamente contro il nemico e vederlo scappar via dalle nostre vite se noi resistiamo. E come resistiamo? Stando fermi nella fede. La resistenza non è una virtù che è data alle tue forze carnali, è una virtù che è data da forze spirituali e dalla presenza di fede nella tua vita. Per questo voglio parlare di fede, perché la mia speranza questa sera è che alimentando la tua fede tu possa resistere meglio al nemico, e la mia convinzione è che resistendo noi il nemico, egli fuggirà via da noi e le nostre vite saranno esattamente quello che Dio ha stabilito per noi. Basta farci derubare dal nemico, basta farci fermare dal nemico, basta permettergli di sabotare la nostra vita, basta permettergli di frenare il nostro percorso di gloria in gloria, basta a farci arretrare da lui o a farci raffreddare da lui in una condizione di staticità dove siamo inermi davanti alla sua minaccia. Basta tutto questo, siete d'accordo con me? Basta questo. Il nostro Dio ha vinto, Cristo Gesù è vivente e lui ha promesso che ci dà una vita piena, e quella vita piena ci appartiene. La fede è l'arma contro il nemico. Vi ricordate quante volte Gesù nei Vangeli incoraggia la fede? Incoraggia la fede nei suoi discepoli. Riprende i suoi discepoli quando vede che sono mancanti di fede. Corregge i suoi discepoli, elogia gli uomini e le donne di fede che incontrano nel loro percorso. Gesù sempre, continuamente, ai suoi discepoli cerca di far comprendere la fede è importante nelle nostre vite. E Gesù continua a fare questo in me e in te oggi. Lui ti incoraggia ad avere fede. Lui mette a prova la tua fede al fine di far crescere la tua fede. La cosa più importante che tu hai nella tua vita è la tua fede. E la cosa che più devi insistere a far crescere nella tua fede, nella tua vita, è la fede in Cristo Gesù. Non c'è cosa più importante da alimentare. Alimenta la tua fede. Anche attraverso le prove, perché le prove vengono proprio per permetterti di crescere in fede, non per ridimensionare la fede. E che cos'è la fede? Beh, Agostino, uno dei primi teologi cristiani, ha detto: la fede è credere in cose che non si vedono. La fede è credere in cose che non si vedono, e il risultato della fede, ha aggiunto, è cominciare poi a vedere le cose che abbiamo creduto. Quindi la fede è credere in ciò che non vedi. La fede non è basata su quelli che sono i tuoi sensi, quello che vedi, quello che tocchi, quello che senti, quello che percepisci, quello che è scientificamente provato, ciò che razionalmente la tua mente riesce ad elaborare. No, la fede è la certezza di cose che non si vedono. E Dio ti invita questa sera a immaginare, a visionare quelle cose che materialmente non vedi, ma che Dio ha stabilito per la tua vita, promesse e parole e cose che vengono ripetutamente presentate nella parola di Dio e che tu puoi attirare e alimentare quali convinzioni nella tua vita. La fede è una speranza ad un livello superiore, ed è una speranza a livello superiore e a livello tale che il dubbio va via, viene annullato. Questa è la fede. E quindi come alimenti questa fede che non ha più dubbio? La alimenti attraverso la preghiera, la alimenti attraverso la parola, la alimenti attraverso il ricordarti le promesse di Dio, la alimenti nell'avere una relazione con quel Dio che credi di essere anche se non lo vedi. In questo anno stiamo parlando spesso dell'eternità. C'è un'eternità. C'è una vita eterna. Posso sentire un amen a questo? Siete convinti con me? Dopo questa esistenza terrena noi vivremo per l'eternità con il nostro Signore Gesù. Amen. È così. Quanti hanno visto la vita eterna? Quanti hanno visto il nuovo mondo e i nuovi cieli e la nuova terra? Vi ho portato una foto per farvela vedere, così che voi possiate credere. Sara, puoi proiettare la foto? Non c'è? Non ti è arrivata la foto? Poverina, lo sto mettendo in panico, è la prima volta che sta sola lì dietro il computer e di fatto non ti ho mandato nessuna foto, quindi stai facendo un ottimo lavoro e ti ringraziamo tutti, Sara. Ha vissuto i 30 secondi più brutti della sua giornata, vero Sara? È tutto a posto. È tutto a posto perché non c'è una foto. Non c'è un video che posso mostrarvi. Tutti erano lì in aspettativa. Vediamo com'è questo nuovo mondo. Vediamo il pastore dove l'ha potuto prendere, da dove l'ha potuto scaricare. Non c'è. Eppure noi ci crediamo, pur non vedendo, noi ci crediamo e un giorno lo vedremo. Questa è fede, è la convinzione di cose che non vedi ma che sai che ci sono e nel momento in cui cominci a crederle, cominci a viverle e a vederle. Io voglio parlarvi di fede questa sera perché la fede è inversamente proporzionale alla paura nella nostra vita. Le due cose sono opposte tra di loro. Tu non puoi avere fede e paura allo stesso tempo. O hai paura oppure hai fede. E io prego, la mia preghiera è che ciascuno di noi possa vivere una vita senza paure, alimentata dalla fede. Dio ti ha destinato a vivere questo tipo di vita. Una vita che ha paure è una vita che non prende sul serio l'importanza di alimentare la propria fede. Gesù dice in Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato. Quante volte viviamo una vita nella quale il nostro cuore è turbato, è spaventato, è deluso, è amareggiato? Gesù dice il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Vedete la contrapposizione? Vi leggo un altro verso, questo è nella tempesta, quando Gesù con i suoi discepoli si trova nella tempesta, disse a loro, Matteo 8:26, perché avete paura? O gente di poca fede. Vedete la contrapposizione? Se tu hai fede, la paura diminuisce. Se tu hai paura, è la fede ad essere debole, ed essere poca. Gesù ti invita ad avere tanta fede e a vincere la paura nella tua vita. La vita, una vita nelle paure è una vita che è spesso condizionata dal controllo. Cioè noi reagiamo a quelle che sono le paure nella nostra vita assumendo il controllo. Quando vedi persone che hanno un eccessivo controllo nella loro vita è molto spesso perché hanno paura. E la paura ci porta ad avere questo eccessivo controllo dove tutto deve essere ben definito, dove tutto deve essere stabilito, dove tutto deve essere chiarito e tutto deve essere nelle mie mani. E se mi esce fuori di controllo qualcosa, non va bene. Perché? Perché quella cosa fuori controllo alimenta in me paura, ansia, preoccupazione. E il Signore dice no, puoi vivere una vita rilassata, puoi vivere una vita nel riposo, perché la fede produce riposo. Non vivere una vita nel controllo. Lo vedi nei genitori, i genitori che hanno paura per i loro figli. Lo vedi nel linguaggio. Non toccare, non correre, non sudare. non andare, non parlare, non respirare. Paura. È una paura che poi viene riflessa nei bambini, che cominciano ad avere insicurezza nella loro vita. E noi molto spesso siamo quei bambini cresciuti, che sono stati educati in questa maniera. Io sono così grato ai miei genitori, perché a volte, forse a volte anche in maniera eccessiva, vai, fai, parla, suda, cadi, rialzati, sporcati. È così importante che noi riconosciamo che la reazione della nostra vita alla paura è qualcosa che porta controllo tutto attorno a noi, ma è un controllo che ci sfugge, perché non puoi avere controllo nella tua vita. Te ne sei reso conto? Forse non a 20 anni, forse neanche a 30 anni, ma arrivati a 41 anni, lo so, sembra che non ce li ho, però ho 41 anni, a 41 anni ti rendi conto effettivamente che non hai il controllo della tua vita. Che tutte quelle volte che vuoi avere controllo, in realtà stai ridimensionando la tua vita, perché la stai ridimensionando ad una misura fatta delle tue forze, delle tue capacità, quando Dio ti chiama ad avere una vita smisurata. Perché? Perché nelle sue forze, nelle sue capacità, rimetti la tua vita fiduciosamente nelle mani di Dio, e allora potrai riposare ed avere sicurezza anche davanti alle minacce più grandi. Dio vuole che noi non viviamo nella paura. La paura produce ansia nella nostra vita, e l'ansia produce in noi preoccupazioni di ogni tipo, e le preoccupazioni di ogni tipo nella nostra vita portano a due reazioni, quelle del controllo oppure quelle dell'apatia e della depressione. E spesso le donne sono più nell'azione, nel controllo, e gli uomini più tendenzialmente nell'apatia, nel dormire, nell'abbattersi, nel ridimensionarsi, nel chiudersi, nel non parlare più, nel non reagire più. E così confinano la loro vita sempre più, e questa vita diventa sempre più piccola, sempre più confinata. E perché lo fanno? Perché non vogliono rischiare di avere paura o di essere delusi e feriti. Abbiamo cantato: tu sei destinato a libertà. Gesù ti chiama ad essere libero. Quanti vogliono libertà questa sera? Quanti vogliono crescere nella fede questa sera? E dire: io voglio andare oltre le mie paure, io non voglio vivere una vita condizionata dalle paure, io non voglio fare tutto a dimensione delle mie capacità, io voglio andare oltre nelle capacità di Dio. Io voglio raccontarvi la storia di Hudson Taylor, una delle tante, perché ci sono tanti candidati che mi stanno guardando e stanno dicendo: raccontaci qualcosa di un missionario, lo sento, lo avverto questa urgenza. Hudson Taylor, un ragazzo a 17 anni chiamato ad andare in missione in Cina nel 1800. L'unico modo per arrivare in Cina era attraverso delle navi, lunghi, lunghissimi viaggi, estenuanti. Erano poco distanti dalla Cina. Quando questa nave, la nave di Hudson Taylor, non aveva più vento in poppa e non aveva più la possibilità di spostarsi e andava alla deriva. Il capitano era particolarmente allarmato, perché la direzione della nave era verso un'isola le cui spiagge erano rocciose, ma la minaccia più grossa è che di quest'isola era risaputo che c'erano la presenza di tribù indigene che erano dei cannibali, e quindi minacciose, ostili. Il capitano, preso dalla paura, consapevole che nella sua imbarcazione, pur essendo ateo, ma sapeva che nella sua imbarcazione c'era un ragazzo di fede, va da Hudson Taylor e presenta la situazione. Dice: non c'è più vento, le nostre vele non danno più spinta alla nave, e stiamo andando alla deriva e stiamo per scontrarci contro le rocce di quest'isola. E probabilmente subiremo delle disavventure a causa delle tribù di quest'isola. E Hudson Taylor fece due cose. La prima, che è ben più, come dire, straordinaria della seconda. La prima è dire al capitano: issa le vele. issa ora le vele. Il capitano a quest'ordine disse: non ha senso issare le vele, non c'è vento, è da pazzi, l'equipaggio mi darà del pazzo come capitano che issa delle vele quando è evidente che non c'è alcun tipo di possibilità di avere spinta, neanche da una brezza. Hudson disse: issa le vele, e poi si chiuse nella sua cabina per pregare. Il capitano volle tentare, issò le vele, e passarono i primi 10 minuti, e nulla accadde. La prima mezz'ora, e non cambiò la situazione. La barca, la nave, andava alla deriva, e la minaccia era sempre più viva, più reale. L'equipaggio era terrorizzato da quello che stava per accadere. Hudson Taylor era lì in preghiera. Dopo mezz'ora, dopo 40 minuti, 45 minuti, e una brezza comincia a soffiare. E questa brezza si intensifica e diventa vento. E a 45 minuti la nave comincia a muoversi esattamente nella direzione che il capitano aveva la possibilità di guidarla. E così il capitano scende in cabina, va a bussare ad Hudson Taylor e dice: non serve più che tu preghi, perché c'è vento e la nave si sta spostando. 45 minuti di preghiera per vedere un miracolo che Hudson Taylor aveva già visto e già immaginato nella sua mente, perché la fede è certezza di cose che non si vedono. Comincia a credere l'impossibile e poi mobilitati in preghiera affinché l'impossibile che Dio ha stabilito per la tua vita diventi possibile, perché non c'è impossibilità per il Dio onnipotente, creatore dell'universo, che ha il potere su ogni cosa, nella tua vita, nelle tue circostanze, tutto attorno a te. Non c'è nulla che può resistere alla potenza del nostro Dio e Salvatore Cristo Gesù. Amen. Credi, metti in moto la tua fede, immagina le cose impossibili e poi mobilitati in preghiera. Voglio concludere incoraggiandoci a fare quello che Gesù dice a ciascuno di noi: non turbarti, credi in me. Gesù questa sera ti sta dicendo: credi in me. Affidati a me e non limitarti ad una fede che è troppo ingenua ed è troppo immatura e che prevede delle preghiere sintetiche alle quali vogliamo un'immediata risposta. Sii disposto a non fermarti in preghiera 10 minuti o 20 minuti o 30 minuti, perché probabilmente la risposta starà ai 45 minuti della tua preghiera. Non fermarti dal pregare preghiere che hai già pregato insistentemente, perché il Signore ci insegna attraverso la sua parola di non angustiarci di cosa alcuna, ma di presentare le nostre richieste in preghiere e suppliche. E la supplica è il ripresentare delle richieste a Dio, anche per la decima volta o per la centesima volta. Non ti stancare di credere che ognuna delle tue preghiere è ascoltata da un Dio dell'impossibile e che Lui vede le tue circostanze e forse non sta rispondendo ancora, perché vuole spingerti oltre i 10 minuti di preghiera a vivere un tempo più appartato per Lui e ad arrivare a 45 minuti. Vi ricordate che Gesù nel Getsemani disse ai suoi discepoli: come non siete stati disposti a pregare un'ora con me? Forse ci sono delle preghiere non esaudite in questa sala, perché Dio ti vuole talmente tanto bene che non ti vuole lasciare ad una immaturità spirituale fatta di preghiere prima dei pasti, sintetiche, alle quali ti fermi subito per poi avere una risposta ed essere deluso perché non è arrivata. Dio forse ti ama a tal punto, e questa sera te lo vuole ricordare, che vuole spendere più tempo con te e che vuole spingerti a passare più tempo con Lui. Gesù ci invita a pregare. Siate sobri, vegliate. L'avversario va attorno come un leone ruggente, cercando di divorarci. Voi rimanete fermi nella fede. Gesù ti invita a vegliare, ad essere sobrio e a rimanere fermo nella fede. Dio ci sta invitando questa sera ad avere una fede che ha una fermezza, una postura, che non si accomoda, che non si ridimensiona, che non diventa apatica, che non ascolta le delusioni, ma una fede che è attiva, che veglia. La verità è questa, che se stai vivendo una vita nelle paure e nelle ansie, il tuo problema non sono le paure. Non hai un problema di paura, hai un problema di fede. E io questa sera voglio invitarti a riconoscere qual è il vero problema, perché molto spesso, come credenti anche, pensiamo che dobbiamo risolvere la paura, dobbiamo risolvere l'ansia, dobbiamo risolvere la tristezza, dobbiamo risolvere tutte queste cose e ricorriamo ad ogni strumento e ad ogni mezzo per vincere e superare queste cose, quando in realtà il vero problema non sono queste cose sono una semplice conseguenza di una mancanza di fede. E quindi la soluzione non c'è in un soccorso esterno, in una pillola, in un libro nuovo da leggere, in un consiglio di un'ennesima persona che ti può aiutare. La vera soluzione, il vero antidoto contro la paura, contro l'ansia, contro le preoccupazioni che diventano una morsa nel tuo cuore, nella tua anima, è avere fede. E la fede, una buona notizia per ciascuno di noi, si alimenta. Si alimenta. Io, tu, possiamo scegliere di alimentare la fede. La parola di Dio ci dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio. Più ti alimenti delle verità di Dio, più ti alimenti delle promesse di Dio, più confessi con le tue labbra le promesse di Dio, più tu alimenti la fede. E io voglio incoraggiarti a partire da questa sera di mettere a digiuno le tue paure e ad alimentare la tua fede, non a continuare ad alimentare le tue paure e a mettere a digiuno la fede. Scegli questa sera di leggere la parola di Dio, di confessare la parola di Dio, di annunciare la parola di Dio, di dichiarare la parola di Dio, di cambiare linguaggio e di assumere un linguaggio che ricalca quello che Dio dice e che Lui ha stabilito per te. Io ti incoraggio ad avere una disciplina di preghiera, a non fermarti a pregare poco, in maniera spicciolata, in maniera immatura. Prega, alimenta la vita di preghiera nella tua vita. E poi voglio incoraggiarti che la fede si alimenta attraverso il ricordo. Che cosa ricordi? Che cosa ricordi a te stesso e agli altri? Molto spesso quello che noi ricordiamo a noi stessi e agli altri per un'inclinazione carnale sono le sconfitte, sono le delusioni, sono le amarezze, sono le preghiere non risposte. Dio ci invita sempre attraverso la sua parola a ricordare le sue vittorie nella nostra vita. Quante vittorie hai avuto per mezzo di Cristo Gesù nella tua vita? Quanto le stai ricordando? Onora Dio, l'adorazione non è altro che questo. Dio, io ti lodo perché tu hai messo gioia nel mio cuore e mi hai fatto vincere dalla depressione. È la testimonianza di diversi in mezzo a noi. Confessa questa verità. Non confessare il fatto che vivo di nuovo paura, vivo di nuovo la minaccia della depressione nella mia vita. No, ricorda quello che Dio ha fatto e quello che Dio vuole continuare a fare, perché se Lui lo ha già fatto, lo vuole solidificare nella tua vita e vuole darti altre vittorie. Dio, ti lodo per come tu hai salvato il mio matrimonio e per come tu lo vorrai ancora salvare. Questa è fede. e tu alimenti la tua fede nel momento in cui non ricordi quello che il diavolo sta cercando di fare e non ruggisci con lui, ma rifiuti il ruggito del diavolo e cominci ad adottare il ruggito del vero leone, il leone di Giuda, Cristo Gesù, e dichiari le sue vittorie su di te, per la tua famiglia, per la tua vita. Lì è la vittoria. Vivi alleanze di fede. Io ho amato in questo periodo il fatto che tra di noi sono nate delle chat su WhatsApp per fare alleanza in preghiera, per concorsi e posti di lavoro, vero Saverio? E per allearci e pregare insieme, affinché Dio potesse aprire porte impossibili. E concorsi sono stati vinti, e porte si sono aperte, nuovi posti di lavoro, nuove opportunità. E sapete da dove deriva tutto questo? Da un principio che Gesù ama, il nostro allearci in unità. Dio ama la nostra unità. Dio ha stabilito la Chiesa affinché possiamo lottare insieme. Non unirci per deprimerci, non unirci per amareggiarci, non unirci per ruggire il ruggito del diavolo, ma unirci per ruggire il ruggito di Cristo Gesù e pregare e annunciare dove vento non c'è che ci sia vento. E per spingerci e incoraggiarci gli uni gli altri oltre quei 10 minuti, per arrivare insieme ai 20 minuti e poi ai 30 minuti e ai 45 minuti. Questa è la Chiesa. E noi siamo qui questa sera riuniti perché vogliamo alimentare la nostra fede e camminare in fede. Amen. Se questa è la tua volontà e il tuo desiderio, alzati con me ora. Vogliamo pregare. E dopo che pregheremo, canteremo insieme, chiedo al gruppo Lode di cantare di nuovo il brano Tu hai vinto, ma in modo particolare questa primissima strofa, che forse abbiamo cantato tante volte, però un conto è cantare con le labbra, un altro conto è dichiarare col cuore. E questa strofa dice: le mie paure si arrendono, le mie paure si arrendono al Dio dell'impossibile. Se torneranno, io correrò dal Dio sempre amorevole. Perché questa è una verità, che tu sei amato, che io sono amato. E su questa verità dobbiamo porre fede. Gesù ti ama. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, Onofrio, ma che Dio ha amato noi. Questo è l'amore, che Dio ha amato noi. E quell'amore è sicuro per te. Lui è per te. Lui ti ama. Lui ti accoglie. Lui ti vede. Lui vede le tue circostanze. Lui vede le tue situazioni. Lui vede i tuoi pianti. Lui vede la tua malattia. Lui vede le tue circostanze avverse. Ti ama. E devi alimentare in te la fiducia in questo amore. Devi confessare a te stesso per ricordarti che sei amato. Devi confessare: io sono amato da Dio. Dio mi ama. Dio ha cura di me. Amen. Amen. Dobbiamo chiudere i nostri occhi. E non c'è ombra di dubbio che questa sera il Signore vuole che prendiamo decisioni. Decisioni che Lui appoggia e decisioni che Lui sosterrà nel tempo, se tu glielo permetti. La decisione di avere più fede è una tua scelta. La scelta di arrenderti, di perdere il controllo e lasciare a Lui il controllo. La scelta di non vivere più in una vita ridimensionata, piccola, per non soffrire, per non rischiare, ma ma una vita dove fai quello che Dio ti chiede di fare, perché la fede produce obbedienza e l'obbedienza alimenta fede in noi. Scegliamo questa sera. Se questa è la tua scelta, ti chiedo di arrendere il tuo cuore a Gesù, alzando le tue mani al cielo. Voglio pregare che una porzione di fede maggiore ci possa essere data e che la decisione che stiamo prendendo qui, ora, questa sera, in questo luogo e a Mottola e a casa, possa essere una decisione che stabilisce un nuovo percorso di vita, un percorso di vita dove il nemico non ha il potere di ridimensionarci e derubarci della vita piena che Dio ha per noi, ma un percorso di vita dove in fede andiamo avanti di gloria in gloria. Padre, tu vedi le mani che si stanno alzando in questo luogo. Tu conosci i nostri cuori, tu conosci le nostre paure, tu conosci le nostre ansie, tu conosci le nostre lamentele, le nostre amarezze, tu conosci tutto di noi. Tu sei qui non per giudicarci, ma per rialzarci alla pienezza di fede e vita piena che tu hai stabilito per noi. Io prego in questo momento affinché la decisione che i tuoi figli stanno prendendo in questo luogo possa essere una decisione che stabilisce un nuovo percorso dove la paura non ha dominio, dove la paura non signoreggia, ma la tua parola signoreggia, la fede signoreggia. Nel nome di Cristo Gesù io proclamo la tua verità per ognuno dei tuoi figli qui in questa sala, e ti appartengono, lo proclamo, lo dico, sono amati, lo proclamo, lo dico, e le tue promesse sono per loro. Tutte le cose di questi tuoi figli coopereranno al bene, ogni cosa che attraverseranno, e tu provvederai a loro. Loro non saranno nel bisogno, perché tu provvederai a loro finanziariamente, tu aprirai porte, tu soffierai quel vento che ora non si vede. Io lo dichiaro nel nome di Cristo Gesù contro ogni situazione avversa, contro ogni nave che è alla deriva, nel nome di Gesù, che il tuo vento possa soffiare ora. Alleluia, dichiariamo la tua vittoria. Alleluia, continuiamo a pregare, Chiesa. Per la tua decisione, prega al tuo Dio. E dichiariamo le parole di questo brano insieme, con forza.